domani sarà diverso. Vivi questa notte che ti porterà via. Scalda il petto quando fuori fa freddo. Ho un fuoco dentro che brucia e non spengo. Domani sarà diverso. Vivi questa notte che ti porterà via. Muovi il tuo cuore quando tutto è fermo. Mentre disegno il mio mondo perfetto. Ripongo maschere con cura dentro i miei cassetti e lascio all'ipotetico il controllo degli schemi mentali, ponendo un'enfasi maggiore sopra i miei difetti ed ascoltando gli echi dei miei forse e dei magari. Poi rivivo trame ad occhi chiusi e ne riscrivo i finali, sbirciando dietro aperturgi scenari immaginari. L'esame di coscienza porta processi sommari, io senza avvocati, dubbi, angoscia, le corti marziali. Lo spazio e il tempo fusi in quarta dimensione non rappresentano più le forme della coercizione. Io sono ovunque in nessun luogo e nel frattempo altero il gusto del ricordo col sapore della previsione. La veglia e il sonno si rivelano per ciò che sono, due mondi indissolubili come l'amore e l'odio. Perché il concreto non ha senso senza il potenziale, poi l'irrazionale è solo l'altra faccia del reale. Domani sarà diverso, vivi questa notte che ti porterà via. Scalda il petto quando fuori fa freddo. Ho un fuoco dentro che brucia e non spengo. Domani sarà diverso, vivi questa notte che ti porterà via. Muovi il tuo cuore quando tutto è fermo. Mentre disegno il mio mondo perfetto. L'occhio fugge nel mondo dove rende l'ombre lunghe. Percezioni per le quali non si indulge se non sono giuste. Forza occulta e massa di notte costruisce all'alba, la mia mente distrugge. Non svegliarti, il minimo che posso fare è rifugiarmi in questa evasione rallegrata. Ed è sintomo del disfattismo generale. Rischio di considerare bene male un palindromo. La coscienza si contorce, rifugio dal corpo, invade, sventa a bordo del foglio, passa coprendo il resto. Lascio paesaggi distinti di sfondo, coco dentro un mondo inconscio che non avevo ancora scoperto. Tu dormi pure, dormi, ti mostrerò il confine in cui sprofondano l'orizzonte, in cui si sciolgono le nostre vite. Ogni azione di controllo mostra come si nasconde chi sogna controllo dell'azione del regime. Domani sarà diverso, vivi questa notte che ti porterà via. Scalda il petto quando fuori fa freddo. Ho un fuoco dentro che brucia e non spengo. Domani sarà diverso, vivi questa notte che ti porterà via. Muovi il tuo cuore quando tutto è fermo. Mentre disegno il mio mondo perfetto. Domani sarà diverso, vivi questa notte che ti porterà via. Scalda il petto quando fuori fa freddo. Ho un fuoco dentro che brucia e non spengo. Domani sarà diverso, vivi questa notte che ti porterà via. Muovi il tuo cuore quando tutto è fermo. Mentre disegno il mio mondo perfetto.